E la miglia lava Robi, lava Robi, lava al marca, e la compra una cordicella per andarci a tranegare. E la miglia lava la stala, saluta tutta la gente, e poi dopo si navia con gli occhi piangure. Quando le stai a tal fondo la rissa, le scarpette lor sale va. S'han baciato e ribaciato, e l'anello s'han donato. S'han legato e rilegato, e la risa lo s'han gettato. S'han baciato e ribaciato, dopo sonnega. Di adred mattina buonura, capo guardia passava da là, lui aveva una cordicella e sa mi s'andre tira. Tirando e ritirando, le la musche due annega, alla corcia la casina, per andare a denunciare. So sorella la finestra, capo guardia per carità, a me manca la memiglia, col suo primo innamorato. E la miglia in la carrozza, lui si anta il caruso. La casina nuova che faceva compassione. O voi altri padre e madre, sa che più da marida, o guardeghi no la roba, e la sei accontenta. O voi altri padre e madre, sa che il fiume